Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. E ricordiamo il nostro sito giordanobrunomi.wordpress.com per il calendario anticlericale 2022 dedicato a Franco Serantini nel 50° del suo assassinio ad opera della polizia, clerico fascista democristiana, info@sicilialibertaria.it. Prete, se lo conosci, lo eviti. Dalla Repubblica del 21 aprile, pagina 17. L'onorevole Zan: ripresento il DDL, disegno di legge, la Lega filocrocifissi non lo fermerà e la lotta all'omofobia continuerà. Mercoledì 27 aprile scade l'embargo semestrale previsto dalla tagliola di Palazzo Madama e l'iter della legge può ripartire. Bene. Su Quotidiano Nazionale del 19 aprile, pagina 17 punto, un articolo o intervista di Nuccio Ordine, le sue ricerche su Giordano Bruno. Nuccio Ordine, 63 anni, insegna letteratura italiana e uno dei principali studiosi italiani anche a livello internazionale del Rinascimento di Giordano Bruno. Quindi una sua intervista sui test per i concorsi dei professori. Coperto di insulti in rete, Quotidiano Nazionale del 19 aprile. La colpa ripara le campane e si segnala come molta gente gli telefona invitando a zittire le campane spaccatimpani dedicandosi a qualche altro tipo di lavoro. Da www.agendacoscioni.it le osservazioni dei comitati promotori sulla sentenza della Consulta sull'inammissibilità dei referendum per l'eutanasia. Una decisione che nega il diritto del popolo sovrano previsto dalla Costituzione di poter modificare le leggi. Chiaramente è stata una sentenza dettata dal Vaticano. Mentre l'eutanasia legale è legale ormai in quasi tutta Europa, l'Italia, come al solito, per colpa del Vaticano e dei preti maledetti, risulta arretrata. Una sentenza politica che va contro la Costituzione, ma tutto questo non si è voluto fare per scelta politica dettata dal Vaticano, l'Italia Repubblica Vaticana. Anche a Torino si è elevata la protesta dei laici contro tale sentenza e il 24 maggio 2022, ore 18, al Po del Novecento, si è infatti tenuto un dibattito su fine vita, referendum negato dalla Corte Costituzionale. Intervenuti l'ormai centenario avvocato Bruno Segre, il dottor Silvio Viale, consigliere comunale di Torino, e il dottor Luca Rolandi, insomma giornalista. Passiamo a Rete l'abuso. Pedofilia Stati Uniti, chiesa di Camden nel New Jersey paga ben 87 milioni di dollari per risarcimento per 300 casi dei maledetti preti pedofili. Sindaco leghista filocrocifissi vieta agli alunni di suonare Bella Ciao, è il clerico fascismo, da Fatto Quotidiano del 20 aprile. Revisionismo di Paolo Berizzi, che è stato minacciato più volte dai clerico fascisti, Repubblica 23 aprile 2022, pagina 33, stato infiltrato dai fascisti. Infatti questo direttore generale scolastico ha mandato una circolare di tipo fascistoide. Primo sì al testo di Meloni, purtroppo, reato l'utero in affitto. Centrodestra unito valga anche all'estero, insomma i clerico fascisti soliti reazionari, sempre contro le donne. Omesso il concordato clerico fascista in un documentario mandato sulla 9 il 24 aprile, Apocalypse, Seconda Guerra Mondiale, documenti, quindi sull'ascesa al potere dei fascisti e dei nazisti, si sottace in maniera colposa, in maniera dolosa, sul concordato clerico fascista del 29 e sul concordato clerico nazista del 33. Il Focolare sotto la cenere, nasce un'associazione internazionale di vittime di abusi, si chiamerà OREF, Organizzazione Ex Focolari Vittime di Abusi, anche lì i preti e i loro accoliti ne hanno fatti tutti i colori. Rete l'abuso, preti pedofili, padre accusa il prete, qualcosa in lui si è spento. Questo povero ragazzino, per le molestie subite, è stato cambiato al punto che qualcosa in lui si è spento. Lo ha riferito il padre del tredicenne vittima degli abusi sessuali, di certo Don Livio Graziano, sacerdote 50 anni, fondatore di una colonia in Campania. Comunque il processo è ancora in corso, insomma vedremo se le accuse reggeranno al tribunale. Ogni abuso sessuale nella Chiesa è preceduto da un abuso di potere o da un abuso spirituale di coscienza. Adulti violati dalla Chiesa, di Paola Merelo. Si segnala un nuovo testo su questa bruttissima pagina del clero. Un numero crescente di sopravvissuti ad abusi sessuali da parte del personale religioso si fa avanti anche in America Latina. Quindi anche lì la Chiesa dovrà sborsare bei soldi per i suoi crimini. In India, dal New Indian Express, newindianexpresslinetta.com. Cosa è accaduto nello stato del Telangana, nel sud dell'India? Sacerdote trattenuto, cioè arrestato, per l'omicidio di una devota. Praticamente c'era una tresca adulterina fra il sacerdote e la devota, che a un certo punto è stata assassinata dal prete. E il marito cornuto ha denunciato il prete, il sacerdote. Preti e sacerdoti, se riconosci li eviti. Da Repubblica del 23 aprile 2022, una foto compromettente tra Putin e Papa Francesco, lo scisma mai dimenticato. Su il manifesto del 22 aprile, un'altra foto compromettente. Il fascistoide premier ungherese Orban a colloquio con Papa Francesco. Altre foto compromettenti di Papa Francesco col fascistoide Orban, che poi saluta il razzista Salvini, filo crocifissi, sul Corriere della Sera del 22 aprile. Disgrazie clericali, temporali negli Stati Uniti. Centrata la croce di una chiesa del Mississippi, centrata e incendiata. Quindi cattolici, ma che pregate a fare? Se il vostro Dio cristiano non riesce nemmeno a proteggervi da un fulmine, figuriamoci da altre cose più gravi. Passiamo al mio piccolo dizionario di terminologia atea anticlericale. Nepotismo, degenerazione cronica su base parentale del potere assoluto pontificio. La cassa papale viene spolpata dai parenti del Papa. Tutte le nomine erano decise da una cricca di parenti del Papa su base familiare. La cosa è andata avanti per secoli, fino diciamo a Papa Pacelli e i suoi famosi nipoti. Nera setta è così chiamata la Chiesa Cattolica, in quanto caratterizzata da una pertinace e costante gesuitica opposizione al progresso in ogni campo. Nido di vipere ambiziose, così era definito il Vaticano, specialmente negli ultimi anni del papato di Paolo VI. Non credente, chi è il non credente? È un cittadino che nel rispetto delle leggi, dell'etica condivisa e della solidarietà umana, opta per la cultura del dubbio, per la consapevole autonomia della coscienza e soprattutto per la libertà di pensiero nel nome di Giordano Bruno. Il non credente non ha altri padroni se non la propria coscienza ed il proprio paese. Pertanto non si troverà mai nel pericoloso conflitto di dover scegliere tra essi e gli interessi di una religione e di un clero, quali che essi siano. Dalla rivista Non Credo, che raccomando a tutti di leggere, chi può abbonarsi, eccetera. Non credente intransigente. E colui che è assolutamente convinto che tutto evidenzi la mancanza di Dio, da Nando Tonon, libro. Preti pedofili, adulti violati dalla Chiesa, clericofascismo, fine vita, fulmini anticlericali, sono le parole chiave di questa puntata del notiziario anticlericale. Bene, saluti a tutti.